abbiamo tutto il diretto a palo. Ah, e poi Natalino, oh yeah, sai cosa stavano guardando col segnale 100%? Cosa stavano guardando? Te leggi? Amos 4 West. Cioè, è riuscito ad agganciare Amos lui? Ho agganciato, ah sì, era su Amos, perché davanti c'è il palazzo, perciò, cioè, a sud è coperto, allo zero puro è coperto. C'è lo spiraglino, proprio qualche grado appena sulla destra, e niente, o si porta su sul tetto l'antenna, la parabola, oppure la si porta di lato, fuori dal vicolo, però lì davanti c'è un albero grosso, cioè non se ne esce con la parabola, o si va sul tetto, poi non se ne esce lì. Addirittura sei sicuro che Ramos, in base a cosa l'hai visto? Perché lì c'è solo lui praticamente. Sì, ma come hai fatto a identificare il satellite? Perché Amos c'è un'antenna grossa per ricevere, mi sembra che non lui segnale 100% con una parabola 60 cm, 80 che sì. No, negativo, il 100% non è reale, il 100% era dovuto a qualche disturbo che c'era da quelle parti, perché anche il mio strumento andava a fischi e movimenti, non so cosa c'è. C'è qualcosa che disturba questo a livello di qualche campo magnetico che fa su e giù, che fischia, capito, che è ciclico, il suo strumento mi saliva il segnale a 100%, faceva tipo dal 12% al 100% ciclicamente, dunque c'è qualcosa che non torna lì, che disturba, però il discorso è che è completamente coperto, cioè praticamente per puntare lo speed devo puntare esattamente il soggiorno di quello che c'è di fronte. Addirittura. Prima una cosa, come si chiama? Perché Amos mi sembra che infatti riusciva a agganciare, Amos c'è un'antenna almeno a 120, è anche difficoltoso, perché non è, lo spot non è radiato verso l'Europa, è il satellite israeliano, diciamo, sulle zone israeliane, dai, i paesi medio orientali. Infatti ho detto, è strano. Era molto, io mi ricordo Amos, lo vedevo spesso quando era analogico. Per tirarlo fuori non era uno scherzo, perché davano le partite di lì e dovevo mettere un sacco di lavori, dovevo fare con lavoratori di soglia, fare un sacco di roba. Boh, che strana questa storia. Secondo me Mario era un satellite prima di Amos. Non lo so, cosa c'è prima di Amos? Tra 0 e 4, cosa c'è? A 5 gradi c'è Thor, il coso, come si chiama, quelli su satelliti nordici, e poi aspetta, te lo dico subito. Oh, io ricordo che Amos non ha avuto nessuna difficoltà, e se non sbaglio era una parabolina da 60 dalla sua carro. È vero che l'illuminatore che c'era sopra era un signor illuminatore con tanto di uscite in oro, placcate e cazzi, cioè un illuminatore che nell'era moderna costava tipo 70 euro, questo sì, che tra l'altro usciva con le separate. Però con Amos non ho mai avuto problemi, ma anche tirato fuori bene. Guarda, c'è anche un satellite nuovo a 2 gradi, che quello con la parabola piccola lo ricevi, e poi c'è Eutelsat a 3 gradi, e poi l'Intelsat, no, Thor non ce la fa a ricevere, Thor ci vuole un'antenna grossa, sto dicendo che si riesce, infatti adesso pensandoci bene con Thor, con quella a 2 metri lo prendevo. Perciò c'è roba a 2 gradi, io da un po' che non ci frulli, io arrivo con lo strumento, per due così alla parabola, pipì, suona, stringo appena, gli faccio la calibrazione, track, entro, siamo del 90 e me ne vado, capito? Ormai è un periodo che faccio così, no? Impianti complicati e da un po' che me ne faccio, qualche motorizzato, ma quindi sono altri parametri, e non so neanche guardare cosa sono, perché sono automatici i decoder, una volta che gli dai lo zero, si muove da sola, si dà le percentuali, finisci l'inclinazione, si è a posto, finito. Amos, l'unico transponder che con parabola è piccola, da 90 ce n'è solo uno, è tutto criptato, canali ungheresi sono e basta, tutti gli altri ci vogliono parabola dai 2,40 in su, era molto difficoltoso da ricevere, infatti me lo ricordavo benissimo, io per agganciare era molto ma molto difficile, perché ovviamente con quella grande, ma facendo lavorazione di soglia eccetera eccetera, se no non ce la facevi, ti sganciava, soprattutto quando c'erano giornate diciamo piene di coso, o di nubi o di pioggia. Comunque strumento lo stavate guardando, scusa se te l'ho chiesto. C'ho un uno, quello piccolino, il Satlink, piccolo piccolo, fa solo Sat quello. Invece l'altro che ho fa il dual tuner, cioè sia il terrestre che il Sat. Satellite, cioè, quello giallo c'è? Cioè, sì, quello giallo che rifà, che è il dual tuner, e poi c'è un altro satellite più che è dedicato solo al satellite, e quello che sta funzionando bene. Quello giallo ogni tanto ha qualcosa da dire che non mi piace. No, già vanno bene, per fare appuntamenti vanno più che bene. Ok, ne ho uno anche io di quelli della Satlink che fa solo SAT, e poi c'ho l'altro, il Promax, che fa SAT e coso, e digitale terrestre, parte da 25, addirittura da 25 MHz. Deve essere carino. No, ho smesso di spendere su quegli strumentini da quando io penso che tanti anni fa, sarà una ventina anni fa. Avevo il mitico una ma quello a tubo cattolico, cioè presente? La buglia, quello lì poteva essere mio, quello grosso, però quello il topo della Unam, che è andato a finire la Gavino, poi non so che Gavino ne abbia fatto di studio, perché c'aveva un amico, doveva darla a me, poi non è andato a buon fine il discorso, era venduto a prezzo quasi ridicolo, quello lì c'aveva anche addirittura la stampante, ti dava tutti i parametri, era il topo di gamma dell'Unam, ma era una qualità di ricezione da paura, c'era tutti i parametri eccetera, era bellissimo, l'unico limite era a tubo, la batteria durava mezz'ora. Scappa, infatti quello era il problema. Pagato 4 milioni, comodo il puntamento, era una figata, però la batteria mi durava dopo 2-3 cariche che l'avevo fatto, mi durava pochissimo. Era in garanzia, spedito su a Milano, tornato dopo 2 mesi, nel frattempo mi sono dovuto sbattere le corna, lo prendo, lo uso, quella di nuovo il problema della batteria, a guardia non è possibile, a guardia ascolti, io glielo restituisco, cosa facciamo? Devo recuperare i soldi di questo apparecchio oppure la batteria funziona? Rispedito, ritornato, problema della batteria, e poi ero anche per la sensibilità, ho capito che stavano pasticciando, ora da una parte l'ha detto un amico, vai, ma lo vedi, me lo vedi, acqua da mio milione, poi lo prendo via. E per fortuna non ho più visto, perché avevo questa moglie di prendere la calci, di tirarlo giù al tetto, guarda, non ti dico. No, ma sono dei grandi, una ma fanno degli ottimi apparati, quelli di nuova generazione soprattutto. Grandi, i limiti di quelli erano le batterie a nickel cadmio, che duravano pochissimo, e poi i cicli di carica erano molto limitati, come i vecchi telefonini degli anni, fine anni 90, erano tutti a nickel cadmio, soprattutto al litio, cioè hanno pesi molto più ridotti, autonomie molto più lunghe, cicli di carica enormi, per cui è tutta un'altra musica. Anche questo che ho io, gli accumulatori sono a nickel cadmio e non si possono neanche mettere al litio, perché chiesto, non fa, non si possono mettere, purtroppo potrebbe arrangiare con quello. Ok, Gianni, doppio rumato il mic. Gianni, sei dormito, Gianni? Già ci sono, ma sta ascoltando, c'è qualcuno sul fondo che sta chiamando. Manda, manda. Sentiamo la propagazione. Sì, è propagazione, infatti lo stavo per dire, Gianni. Siete voi con la parabola che avete preso e segnato. No, ma io non so se ti ho detto il discorso, il satellite è il punto mio di cosa, di riferimento, io mi sono fatto soddisfazione da paura, non so se vi ho mai raccontato a Fabio, forse a Gianni lo raccontato. Sì, io lo so che c'è la parabola più grande di Sassa, di tutte queste cose. Avete parlato in due. Dai, già. Ho detto che lo so che tu c'hai la parabola più grande di Sassari. No, non più grande, diciamo grande, più grande di me, già ce n'è una di 5 metri, cioè per quello. Però la usa il coso, il come si chiama? Il centro agrometeorologico, il SAR. Ecco. Cappa, quindi per dirmi come privato sto dicendo. No, posso dirmi, cioè, mi sono tolto soddisfazione, ce l'ho ancora, non è che ce l'ho mica, io ho un ottimo ricevitore, cacchio, ho avuto diversi ricevitori. E tieni presente, solo il convertitore, ti dico solo quanto costava, il California Amplifier, non so se l'hai mai sentito nominare, costava più di 600.000 lire, solo il convertitore. Cazzo, ascolta, non la sai più usando, ma c'è, è motorizzata quella. sono tutti e due motorizzate, io ne ho tre di parabole, due motorizzate, una offset e una primo fuoco e poi una fissa sui 10 gradi, no scusa, sui 16 gradi est, per dove c'è una cosa particolare. Ma tu girando non riesci a prendere i segnali che prende quella fissa? Ma chi sa prendere solo un satellite? Con quella motorizzata c'è tutti i satelliti impostati, ci sono una quarantina, 50 satelliti. Ogni satellite ha centinaia e centinaia di canali e qualcuno neanche migliaia. Ah ecco, siamo a posto allora. Cosa stavi tutti i giorni a guardare la televisione? No, allora, c'è da dire una cosa, quando i canali erano analogici, parliamo nel 95, di satellite ce n'erano forse qualcuno in meno di adesso, se adesso ce ne sono 50 ce ne saranno stati 40 di satelliti, era più difficoltoso prenderli perché le potenze erano molto più limitate, i fasci di radiazione erano più ristretti, eccetera, eccetera, e poi c'erano accorgimenti da fare perché le polarità di certi satelliti non sono come la TV normale, è orizzontale e verticale, dice anche sinistrosa e destrosa, per cui ci voleva un polarizzatore o magnetico o meccanico che comandava, infatti questo convertitore costava un sacco di soldi, non so se l'hai mai visto, ce l'ho ancora, l'ho tolto però, era una bista enorme con LED, di notte mi dicevano quelli che lo avevano nel palazzo, ma cos'è quella cosa che si muove di notte, avevano questo LED, camminava, diceva cos'è, tutti mi hanno lasciato, la gente me lo chiedeva. Ruffo. Ah, c'era illuminato. C'era un piccolo LED sul... Allora adesso ormai i convertitori sono tutti universali, diciamo il 99% sono tutti a satellite o tubid fisso, eccetera eccetera, ma prima mi cercavi tutti i trasferimenti, i feed si chiamano, per dire c'era la Siena nell'orizzonte, avevo il coso libero e di lì mi guardavo le partite della Juventus, del Milan, diciamo i trasferimenti c'erano poche frequenze, poi piano piano è entrato digitale, è stato un po' difficoltoso perché ci sono una marea di parametri, ma alla fine ti stanchi pure, allora dovevi entrare su internet e prenderti tutti i valori, perché adesso i feed sono a simboletti molto bassi e il coso bassissimi, ci vogliono ricevitori assolutamente di altissima qualità, perché con un ricevitore finale, cioè di questi utilizzo normale, non riesce a prenderli perché sono tutti 27,5, 29 simborec, mentre di lì sono 2000, 1500, sono valori talmente bassi, ci vogliono attrezzature particolari. Ecco, ma vi ricordo sentite, chi è? Io sono passato da eroe perché ho fatto vedere il mondiale di calcio dopo non arrivavo ai finali televisivi, ho fatto i conti. Non mi ricordo che anno fosse, forse i primi 2000. Ma io mi guardavo, la cosa più bella era dire, a parte le partite, e poi dicevo, guarda c'è l'NBA, e ti davano, c'erano i canali americani dove c'erano le partite NBA, davano, quando c'era Michael Jordan, tutta quella gente lì. Poi c'era la cosa, la CNN, che ancora non ce l'aveva nessuno, la ripeteva la TeleG, non so se ve la ricordate, dava un certo orario, dava Music Box e CNN, non so se ve lo ricordate. No, io non ho fatto il tempo, vabbè, ero già fuori. E io posso dire, mi sono tolto grandi soddisfazioni, i ricevitori ne ho cambiato diversi, motorizzati, l'ultimo l'ho cambiato perché non bastavano più i canali, perché questo era il ricevitore della Ecostar, il top della gamma della Ecostar, analogico e digitale, allo stesso tempo motorizzato, e alla fine si è saturati i canali, non ce la facevi più, perché quando c'hai 10.000 canali non ce la fa più il ricevitore, e ho comprato un altro ancora della Ecostar, solo digitale e motorizzato, lì è arrivato il top dei coso, dei ricevitori, perché prima c'erano i Manhattan, i Coso, i Drake, eccetera, eccetera, però si sono firmati agli analogici, mentre l'Ecostar ha continuato sino ai digitali, ed è l'unico ricevitore, l'ultimo ricevitore digitale motorizzato che hanno fatto in commercio, ed era il top del top, ma c'ha tante di quelle funzioni, quel ricevitore ti perdi, è abbastanza macchinoso da utilizzare, però cacchio, mi ha tolto belle soddisfazioni, poi quelli con l'analogico era ancora più bello, perché con l'analogico, cacchio, dovevi lavorare, tipo quando usi il coso, il preamplificatore dell'antenna, lì c'era un regolatore di soglia, ti sollevava il segnale, ma cacchio era allucinante, poi c'era la banda C, non so se ne hai fatto, Romain banda C tu, e dai, e Fabio. È un po' frugato, c'è un periodo che ero più attaccato a queste cose, alla fine mi hanno messo in valigia una color fate, forse te lo ricordi, era un mazzo, un periodo, è un altro dai venditori delle mie parti, e col Fate ne facevo, col Fate era un bellissimo incisore, era molto sensibile, mi aiutava moltissimo gli appuntamenti, però tu sei andato molto oltre. Allora, il fight, perché è italiano, fate si dice in inglese, però insomma fight, è stato il mio primo ricevitore semi motorizzato, perché ti permetteva di fare una decina di satelliti, non ti faceva tutto l'arco solare di 180 gradi, ti faceva, mi sembra, 30 gradi, una cosa del genere, per dire, ti fai 8 guidi, ti sposti 15 a destra e 15 a sinistra. È stato il mio primo impianto semi motorizzato, lo chiamavano. Poi ne avevo piantato uno che faceva, questo ce l'ho ancora conservato, e il motore è una bestia, lo devi vedere, tutto quanto è una costruzione allucinante, o il digitale, l'indicatore dei gradi digitale, ma è una cosa spettacolare, tu lo devi provare questo qui, me lo sono conservato, ho detto, ma lo tengo per il coso, è un rotore da paura, se lo vedi, la costruzione è tutto in alluminio presoffuso e c'ha un, come si chiama, un'interfaccia e col telecomando che tu imposti i gradi est e ovest, i limiti est e ovest, e più c'hai i gradi, in digitale ti appaiono i gradi, c'è 0 centrale, poi più 15, più 20, fino ad arrivare a 190 da una parte e 90 dall'altra parte. Io quello lo voglio piazzare, ce l'ho sempre pronto, da piazzare per qualche antenna direttiva per farlo funzionare con i gradi digitali, non a, come sono tutti gli altri, perché nel coso, nel decoder ti appare la pagina, nel decoder quello motorizzato ti appare la pagina, ci sono tutti i nomi dei satelliti, ti fa una specie di barra, c'è scritto to build, o testare, tutta la fila, ci sono tutti gli angoli di coso, di posizione del satellite. I ricevitori sono tutti, questo invece al contrario, digitalmente ti appariva proprio il grado digitale del ricevitore, della posizione della parabola. Però potevi portare le parabole sino a 120, misure più grosse no. Proprio ultimamente ho visto un motore grosso che ha un conto di Nikon, che ho lì sotto, e mi è venuta anche a me l'idea di prendere il suo posizionatore, perché ha un posizionatore separato, però non c'è i gradi. La memoria, capisco. Poi dovevi riuscire ad attribuire la memoria del posizionatore alla memoria del satellite del ricevitore. Perciò se fai scanning, soprattutto quando hai una lista di canali favoriti, no? Come ha fatto lui, e allora lo sentivo, lui cambiava canale, faceva canale più della sua lista favorita, e si spostava. Poi magari faceva canale più, non c'era nemmeno ordine, capito, questa satellite. E allora dopo un pochino tornava in questa satellite di prima. È una storia. Poi quel motore lo avevo pensato, quasi quasi lo uso, perché cazzuto è gigantesco, pesa un sacco, quasi quasi lo uso a farci, a metterci una direttiva, stavo pensando. Allora, i due sistemi di motorizzazione erano uno a pistone, quello sulla piccola, quello del 135, quello che sto utilizzando più spesso. Quello lì c'è un pistone, ne avrò cambiato già a 5 di quei pistoni lì, perché dopo un paio di anni iniziano a rompersi perché c'entra umidità, ho provato tutti i sistemi di chiusura, di isolamento, niente, entra e non ci puoi fare niente. Mentre quello grosso, quella di 2 metri, allora c'è un sistema a coso, a ingranaggi a coso, in ghisa, c'è una corona dentata in ghisa, solo il motore pesa più di 40 kg, è una cosa spaventosa quel motore, perché è fatto anche parabole di 4-5 metri per montare quello stesso motore, è una cosa da paura, della rover, con parabola in coso, è un primo fuoco, però al contrario di tutto il primo fuoco che c'hanno i tripodi, questo non ne ha, ne ha uno soltanto, di cui c'ha una resa, ma la parabola ha come una 2,40 m, perché non ha ombra, non fa ombra il tripode centrale. Poi ne ho venduto, non avevo una Irte sempre a spicchi da 180, l'ho data a un radioamatore un paio di anni fa, me l'aveva mandato Claudio, l'ho data quasi a regalo, una parabola costata una barca di soldi, però quella è in alluminio, quella che ho io è in resina. La parabola, tu devi la costruzione di questa parabola, una cosa mai vista, pesa più di 40 kg solo la parabola, è indistruttibile, è una resina particolare per alta resistenza. E qui c'è questo motore, se lo vedi ti spaventi. E capo, me lo immagino, se pesa così la parabola, il motore deve avere veramente... Oh, deve essere tutto cazzuto per portarla a non rompersi. Ma la cosa di quell'impianto, quanto tempo ho perso per fare le regolazioni, tu non hai idea, più grande è, più la parabola è più difficoltoso, perché prende l'arco polare, ci ho perso ore e ore e ore di regolazioni, giornate di regolazioni, perché col misuratore di campo, solo col misuratore di campo le puoi fare queste regolazioni, perché sono millimetriche. Se ne presenta una parabola di quelle dimensioni, c'ha 0,5 di errore, 0,5 gradi di errore, perché tu ti sposti di 0,5 gradi e hai già perso il satellite. Ci sono gli echi, poi per dire, su 8B ti prendi gli echi di how to build, si sposta anche a prendere di un grado e lo riprende, talmente potente il guadagno di quella parabola. Più quel convertitore della California era una cosa da fantascienza, una ditta svedese, California Amplifier svedese, aveva un guadagno con ricevitore. Io facevo tutte le prove dei convertitori, i provati proprio strumentalmente per vedere chi andava meglio, il feeder di coso, di accoppiamento, ho fatto tutte le prove immaginabili per avere il massimo rendimento dall'antenna. Poi ho poi visto dei confronti con altri impianti, con quelle microforate, facevo 10-0, io tiravo fuori dei segnali, poca gente riusciva a tirarli fuori, in analogico, sto parlando digitale, adesso è tutto diverso, perché sono molto più fuori, ma prima in analogico dei segnali, che uno diceva non è possibile che tu prendi quel satellite lì con quella parabola, e Cattelli lo facevo vedere, vieni a vedere, lui c'aveva una parabola delle dimensioni mie, microforata, non diciamo fatto a regolate come il mio, con cavi ad alta resa, diciamo, a sapere, eppure ti posso dire, mi sono detto la mia io su con l'impianto lì. E K, mi è venuto in mente, non è che sai se qualcuno ci aveva la parola 120 che c'era sulla torre del tetto ad Urbia e non la stiamo usando, e lì poverina che non lo so, padre ci ha detto qua commercia, però ma cosa mi conviene 50 euro? Ma com'è, a montaggio polare o fissa? Fissa. Guarda, ce ne sono radi amatori che li utilizzano, anche se utilizzano dimensioni più grandi. Io quello ho dato quella da 180 e gli ho dato un palo di sostegno, che solo il palo costava più di 300 euro, quelli con la base grosso, enorme. Un palo sarà di diametro, penso 15 cm, anche di più, fa 18 cm di diametro, ma un palo grosso, e nato su questo supporto a tre piedi, ma una cosa allucinante. E te portati via anche quello lì, gliel'ho regalato quello lì, gli ho venduto 200 euro la parabola e gliel'ho regalata perché costava più di 1000 euro la parabola della Irte professionale, e più gli ho dato quel palo lì che era della parabola mia, che però non l'ho mai utilizzato perché l'ho fissata, l'ho messa attaccata a fissa, era su un altro impianto e ci avevano messo questo trippode sotto, ma quel trippode che gli ho dato io costava 300 euro. Capo, non c'è qualcuno sotto? Ma è propagazione comunque. Ho visto un segnale. Mi sentite? Eccolo. Ti sto mangiando la cazzata. Cos'è che hai mangiato? Sto mangiando la cazzata. Sto a mangiare la cazzata. Vabbè, non è che ti viene in piedi porcherie, eh. Sennò Gio Roberto qua ti mette a dieta. No, oggi l'ho visto, ho detto devi mangiare qualcosa di sano, basta con le patatine e le cose, ti voglio vedere in forma, perché quando dovrei sollevare le antenne sono pesanti, Riccardi, ci vuole un po' di forza. Ma il dolcetto alla fine non manca mai. Tutti in fondo. Saluta Gianni e potrei mangiare questa cosa, io fai la stazione Ducata. Che c'era, ho acceso adesso, ho fatto in fretta, ho finito, sono corso, intanto sono mangiato la gassata. Saluta Gio Gianni, corri. Però sei carogna, ce lo dice, non ce lo sto già pericoloso. Ciao Gianni, comunque, sì, non è che sono pericoloso, è come Roberto. Roberto dice, mi sta arrivando la pizza e poi non ce la offre, la stessa cosa. No, che il gelato si buono, mi attira di è goloso Gianni, c'è niente da fare, la storia di Cardini. Ho capito. Devi capire che una cosa quando è proibita poi la desideri di più. Io non posso mangiare i dolci, quindi quando mi parli di dolci mi fai morire dalla bocca. Sì, sto mangiando la cassata marcia. E infatti Luca nel monte volevo organizzare. Non dire cassata. Non era un birra a farti, era un gelato a farti. Per te già, lui. Aspetta che Giacomino dico di non dire cassate. Dico cassate. Lo sto dicendo, le cassate. Lo senti roba quando parla di Cabino che entra in modulazione un secondo dopo, che sono importante. Bel difettino, eh? No, capito, un secondo dopo, scusa. Lui è importante, però l'apparato va in modulazione un secondo dopo. Praticamente gli taglia la prima parola. Non ci ho fatto caso, però. Vabbè che lui è una scheggia a me, Riccardino. No, no, solo questo apparato fa così. Prova Riccardino, non ci ho fatto siamo, ho iniziato subito, 1, 2, 3 prova, sì all'inizio, me l'ha detto già Fabio, scusatemi, me ne dimentico. Un attimino mi è sembrata anche a me qualcosina del genere. Prova a tenere premuto e parla tranquillo, senza fare in fretta a parlare, forse sei tu che muoli troppo in fretta. Adesso provo, 1, 2, 3 provo, 1, 2, 3 prova radio, adesso sto parlando normalmente senza andare veloce. Vedi? Riccardino, una domanda. Sì. Ma lo vedi, io so già cosa stai facendo tu, perché te l'ho detto stasera. Tu stai usando il lock, è vero? Attivo, ti stai sbagliando di grosso, sto usando il PTC. Sicuro sei? Perché adesso anche questo passaggio è fatto qualcosa lì. E siccome c'ha il vizio lui di usare il lock non chiude completamente immediatamente il circuito. Per cui tu schiaccia il PTT, o il lock, certo, non lo utilizzare, schiaccia il PTT, aspetta un secondo poi parli. Aspetta che non lo sta usando. No, vabbè, non lo sta usando, però stasera io l'ho visto, lui da lontano si metteva e toccava il lock. E poi non parlava direttamente dal microfono, si girava di fianco, con la mano, quello, ho detto, quando devi parlare al microfono, in radio, devi stare sempre nella direzione del microfono. Perché molte volte poi ci sentiamo la voce alta, bassa, e pochi acuti, pochi bassi, tutto un miscuglio, non si capisce se stai cambiando apparato o niente, devi stare sempre fronte al microfono, attendi un mezzo secondo prima di parlare, schiacci i PTT e poi parli. Sto facendo adesso, prima, perché me ne dimenticavo, adesso che me lo sto ricordato che me l'hai detto, per adesso sto usando ancora il PTT. Aspetta che c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Riccardo. Giacomi. L'apparato che c'era sotto di quello che mi ha mandato, cos'è? Un ricevitore? Chi è che mi ha portato? Avanti che vuole entrare. Non mi dire. Ah, portato. Ma c'è uno Santiago 9, a meno che non sia la Muros, dove torna al 9, un po' più di 9. Sto temendo. No, se non è Muros, magari non sta uscendo, il segnale è più o meno suo quando esce basso. Infatti. Attenzione Muros, se sei tu dai due colpi di portate così capiamo, visto che non ti sentiamo. Non è Muros, stanno mettendo a portata. Sto sembrando il segnale di Capri. Ok, Riccardi, va a te il mic. Va bene, facciamo venire avanti di nuovo a Fabio. E un attimo finisco la cassata e non c'è problema, poi posso parlare tranquillamente. Tanto non mi ha risposto, ti ho detto secondo apparecchio di quelli che mi ha mandato, cos'è? Un ricevitore? Ricevitore. Li hai provati tutti e due? Sì, li ho provati tutti e due e vanno benissimo. Cavolo. Adesso ti spedisco una pagina di casi per farti una mezza cultura in merito. Guarda, ci metterai 3 minuti a leggerla, però ci sono un sacco di cose interessanti, così inizi a farti un po' un'idea sull'ascolto. L'SWL è un altro mondo, troppo bello. Con te l'SWL è molto bello, il mondo dell'SWL. Aspetta che adesso te la mando, te la giro. SWL. Da professore. Il ricevitore. Grazie per professore. Che esce bene in stereo e provi a usarlo sulle SW a sentire com'è. No, è bello, io ho l'altro modello di quello lì, marchiato con un altro marchio, ma sono uguali, forse è leggermente più moderno quello che ho io, perché guardando le descrizioni tue, il mio c'ha la tastierina, eccetera, però c'ha una qualità di ricezione, c'ha il DSP prima di tutto, che è una cosa importante, dopodiché c'ha una qualità audio spettacolare, non me l'aspettavo. Guarda, io da quando l'ho preso in mano sto facendo confronti con l'RZ, no? Stiamo iniziando? No, guarda che in alcuni momenti, nonostante l'RZ ci abbia l'antenna dedicata che gli ho fatto io, che è una bomba, che tira veramente bene, l'accordatore, perciò ogni volta che mi sposto di un pochino mi rimetto in riga, lui che è pieno di filtri, è comunque famoso come dice Vittore, molto, ma che soprattutto su alcune frequenze riesce a essere molto pulito. Nonostante tutto, questo giocattolo che c'è in mano a 10 euro fa paura, cioè a momenti lo fa tremare, dopo una frequenza lo fa tremare di brutto, Sì, no, sono di nuova generazione, poi sono molto più selettivi, filtrati. Ho sentito oggi lo Iaeso di Coso, di Riccardino, però diciamo qualche cosina mi aspettavo un po' meglio il 9600, sinceramente. Io l'ho visto, è una foto molto bello, molto, molto, molto. Avrei grandi aspettative da un apparecchio del genere. Sì, no, niente da dire, però sinceramente non per criticare, l'ho detto anche a Sergio, il mio parere me l'aspettavo molto di più considerando il marchio, perché la Iaeso ha fatto sempre cose eccellenti, però l'ho sentito un pochettino sordo e poco selettivo, addirittura c'erano dei battimenti di coso, intermodulazioni ho sentito, forse magari in quella zona lì ci sono dei segnali riflessi, perché ho sentito delle spurie su frequenze che non c'è niente. No, vabbè, quelli sono di Birz, capace che vengono anche dall'apparecchio, ce li ha ogni apparecchio, ognuno conosce tutti i Birz e si tiene da parte. Io ne ho un paio sulla RZ e so dove sono, tant'è che ogni tanto magari su scansi ferma lì, ti dico aspetta che muovo un attimo l'accordatore per vedere se riesco a centrare meglio la frequenza, e invece tocchi l'accordatore e non si muove niente e capisci che è un Birz. In realtà l'accordatore l'ho fatto anche per questo motivo e me lo sono dovuto fare a mano io, perché tutti quelli che ho provato, che ne avrò avuto una decina per riuscire a girare da 3 a 29 per intenderci, pagati anche abbastanza, anche famosi eccetera, non funzionavano come avrei voluto, perciò gli ho messo le capacità regolabili per accordare la radio all'accordatore e per accordare l'accordatore all'antenna, e poi gli ho fatto la bobina a step per variarmi di banda, capito? Però se ha qualche birz è normale, perché quando entri in IF non sai mai dove va a finire, il PLL giustamente ha anche i suoi limiti, soprattutto perché si in VFO. Se invece andassi a bande in maniera diversa, con il tipo classico selezionatore che c'è sugli apparecchi che vanno a condensatore variabile e non sul varicap, allora i bit non ce li hai, perché in croce del PLL non ti portano frequenze residue, hai capito? Infatti probabilmente sono generate dal ricevitore solo i campionamenti, se questo è il campionamento vari ripetute di cose dall'oscillatore eccetera, però sinceramente me l'aspettavo un po' meglio, è paragonabile alla R3000 che ho, quello piccolo mica. No, aspetta, tu non sai come sta funzionando quell'antenna e non sai neanche cosa è una direttiva, perciò non come fai a valutarlo col discone in una posizione in cui non sai, cioè se lo porti a casa puoi iniziare a fare un confronto, no? Beh, però così magari non è in condizione, a me sembra un apparecchio bellissimo. No, ho fatto prove di segnali io, segnali particolari, molto critici, e non ce la facevo a riceverli. Poi stavo guardando anche lo smitter, vabbè lo smitter non c'entra niente, però segnali che dovresti ricevere tranquillamente non ce la faceva a riceverli, infatti sono rimasto un po' a bocca aperta. Ho voluto la prima prova, l'ho fatta con un segnale campione che ho io, due segnali, ho detto vediamo un po' se tira fuori. Zero assoluto, poi segnali un po' distanti, non è riuscito a agganciare, però diciamo mari vuole un po', col tempo un po' tendono a diventare assurdi questi apparati, anche l'ICMO, l'ICR7000, il mio, quello che avevo, l'altro alla fine diventava assurdo, era un po' problematico, alla fine ne ho preso un altro nuovo. Ma ascolta una cosa, c'è la cosa dell'automatico quello? No, e a parte che sembra molto più grande visto dal vero, cioè in fotografia te lo immagini come un 4,40, un 140, invece è la metà. Poco, cioè per intenderci tipo un 3009, tipo un baracchino 3009. Diciamo la larghezza di un baracchino di un'ala 48 è il doppio di altezza, diciamo, dell'ala 48, più o meno un po' più largo dell'ala 48, dai, per fare un confronto. E sicuramente è nato per essere utilizzato in macchina quello lì, perché c'ha il coso a 12 volt dietro con l'alimentatore esterno, tipo la R3000 che ho io, molto maneggevoli, piccoli, te li porti appresso, se quello li metti un bel filtro e vuoi fare degli ascolti, un filtro sull'88-108, sicuramente migliora tantissimo con l'apparecchio. Serve da provare con un accordatore esterno e con un impianto conosciuto, tipo che magari fai, te lo porti a casa, lo prendi, lo dici a Sergio, fammelo valutare, te lo tieni due giorni a casa e fai il confronto, però con gli strumenti che conosci, perché tu non sai, io ho capito che c'è un discone, Riccardino, non sai quel discone come sta funzionando, se è nato bene, se è nato male, se su alcune frequenze magari ha delle pecche, non sai quanto è lungo il cavo, non c'è nessun accordatore, capitelo bene. Io prima di capire come funziona il ricevitore mi spacco un po' le corna, perché trovo bellino a vederlo, proprio bello, un pezzo della stazione, bello, eh. Allora, è una cosa importante che l'ho già detto a Sergio, era soltanto un'opinione mia, non è una critica, perché tutte le cose sono fatte, costruite per lo scopo cui dovranno essere destinate, è solo questo. Però io ho fatto confronti con altri tipi di ricevitori e sinceramente è solo quello che voglio dire. Rispetto al 7000 stiamo parlando di un altro pianeta di cose. E poi mi dirai, conta tanto l'antenna, conta anche la posizione, eccetera. Però siccome stavamo ascoltando broadcasting, non stavamo andando su cose particolari, frequenze, dire, aeree, cose del genere, che può essere coperto. Il mare lui ce l'ha tutto aperto e volevo fare una prova su certi tipi di cose. Invece ho notato, probabilmente anche il sordo, perché magari l'apparecchio è vecchio, vuole riallineato, eccetera, eccetera, perché sono molto influenzabili questi apparecchi così adattati. Però l'ho detto anche al padre, non è una critica, è un apparecchio con quelle prestazioni lì e non si può chiedere di più. Voglio valutare comunque bel petto, anche l'altro che ha preso per volare, bello bello bello, proprio il classico apparecchio che vorrei in stazione. Avevo qualcosa di simile, insomma, il cambio, però erano altre cose. Avanti, prego. Avanti Muros. Appunto, senti, ma è così bene in vita mia, guarda, lascia tutto così buttato qua nel fondo della finestra, e anche quello che c'ha vicino, che sta uscendo veramente bene, ragazzo. Oggi, guarda, mettici i sigilli e lo fai pensare a tuo padre. Grazie, 928, la di 5 amplificata chiara, non satura, quindi sei a posto. Avanti. Scusate tutti, dove stavo ascoltando, sono entrato perché sentite a lui, non per altro. Avanti Fabio. KQSL, come direbbe qualcuno, riprendi, ma posso dire che sì, anche qui la radio è molto forte e il segnale mi fa da 9.15 spazio a 30 senza amplificazione, leggermente attenuato. Roberto, a lì il mic. Ti dico di nuovo il coso, la radio sentita è bella, chiara e pulita, il segnale non ci ho fatto caso. Avanti di nuovo Claudio. 5SL, buonasera Roberto, sì, diciamo che stavamo facendo gli ultimi lavoretti con l'altro, sì, perché si era incasinato un filo che l'avevo letto, e poi mi ha passato appena appena infatti perché dell'apparato del software campo, perché lo sai cos'è, non mi facevo entrare più dentro il lineare, diciamo, quando schiacciavo la portante, adesso siamo riusciti a farlo entrare in trasmissione. Quanto ti sto arrivando? 9.15, ma sei attaccato tu? Sì, proprio usciamo solo con 80 watt, non le fa tirare di più questa cosa, ripeto. No, bellissima, una cosa ti devo dire, le situazioni sono due, o ti allontani un po' dalla radio o sono abbasso appena appena il Mickey Gain, è leggermente troppo forte. Adesso va benissimo, poco fa stavi ogni tanto qualche picco di saturazione, comunque era sempre chiara la modulazione. Avanti Riccardino per l'amico Claudio D'Amuro. Claudio, ben ascoltato, arrivi fortissimo, ci volevi far stupire con la tua super radio. Abbassa. No, già sta andando bene, mi non toccare niente. Ma c'è doppio rumore, avanti Gianni. Ehi, allora, ciao, mi hai sentito, chiodo da Ruggerito, buonasera, saluto anche a Babbo. Con il segnale, diciamo, perché non entrava prima. parte che attacca. Chi è che ha attaccato? Fondo scala ha annientato a tutti. Ma cosa? Noi possiamo continuare a parlare, Roberto. No, no, no, nessuno, no, non può parlare nessuno con quella portante, è vero. Lo dici tu. No Fabio, non esiste, è attaccata a me la portante, no, no, non ce n'è per nessuno. Due persone solo ce l'hanno quei segnali, e buh. Io lo so, quindi. È più forte di Antonello, Antonello è 9,50, questa portante era 9,60 abbondanti. Ho qualcuno che non sta uscendo, però un segnale è. Dopodiché è un segnale pulito, non c'è nessun disturbo, non c'è niente, per cui non è un baracchino. Vabbè dai, vediamo un pochettino, speriamo che c'è qualcuno che non sta uscendo di radio e basta, perché è talmente forte da niente a tutti, non ce n'è per nessuno. Oh, Yuri, ma come, c'è il CDV, Chiamo da Ruggerito, ci sei? Sì, capa Gianni, sì che ci sono, sì, è veramente forte, allora le faccio i miei complimenti, non è di certo un lopellino, ma adesso le faccio veramente i miei complimenti, veramente contente, complimenti. No, ma non parla nessuno, con questa portante muoiono tutti, non ce n'è per nessuno. Lodate, ho continuato a lodarlo. No, io non sto lodando a nessuno, qualcuno che non sta uscendo, io spero che sia qualcuno che non sta uscendo, e basta, però è un segnale che arriva oltre 9,60. Fondo scala, niente a tutti, si oscura tutto. Ma cosa qualcuno non sta uscendo, vi giorni che la metto. Oh, una cosa, Claudio, quanto arriva a te questo segnale? 9,20. E io quanto ti arrivo? 9,20. Strana, questa storia. Ho sotto casa, perché è impossibile che arrivi a me con un segnale così forte. Alice, quanto ti arriva a te? Oh, Fabio, io lo passo? Sento bene sotto. Come? Già ti sento sotto, non ti preoccupare, già possiamo parlare noi. Alice! E tu Gianni, quanto ti arriva questa portante? 9,30. Più forte di me? Prova! 1, 2, 3, prova radio. Ti annienta a te economicamente, però più o meno siete lo stesso segnale. Più o meno, dai. Siete uguali. Avevo dei dubbi, però è sotto casa mia, perché qua non esiste nessuno, schiaccia anche Antonello. Ah, direttiva, Roberto. Cacca, una direttiva non può arrivare a 9,30 di lì, e Gianni e Cacca lo ascolta 9,30, uno se lo ascolta 9,20. Ma ti preoccupare, Roberto, ti sento. No, io non sento nessuno, zero, zero, proprio scomparite tutti. Allora, il segnale più forte c'è l'Antonello 9,50, questo supera il 9,60. Compra anche a te, Rubi. Compra anche a te. Cos'è già? Che compra anche a te. È certo che mi copre, qua stiamo parlando di potenze allucinanti, non è roba normale. E a parte che quando usi quelle potenze lì, come si chiama, c'è sempre qualche ronzio, questo è un segnale pulito con qualcosa di sofisticato, non stiamo parlando di baracchini. Facciamo una prova, andiamo sul canale 12, dai, 27, quanto è? Canale 12, praticamente 27,105. 27,105, dai, vediamo anche Riccardino, sono stati di lì e vediamo se ci sono, solo per curiosità voglio capire delle cose. E cosa cambia quando messo il dubbio? No, voglio capire una cosa, voglio togliere un dubbio. Andiamo sul 12.